Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. State ascoltando la sesta puntata della serie Il nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Sono Salvatore e con me in questo viaggio, come sempre, c'è Raffaele. Ciao Raff. Ciao, ciao a tutte e a tutti. In questa sesta puntata vogliamo affrontare il problema del revisionismo e del negazionismo da parte dei fasciste delle nuove destre. E per farlo abbiamo come ospite Luca Casarotti, che Luca abbiamo già intervistato in passato ed è uno storico del diritto romano, collabora con Giacobbi in Italia e fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki. E saluto Luca, ciao Luca. Ciao, sono a tutti e a tutti, grazie dell'invito. Io ogni tanto risbuco su Radio Quar e lo faccio sempre con molto piacere. Grazie. Grazie. Senti Luca, partiamo con la prima domanda. Che ripetete una bugia 100, 1000, 1 milione di volte e diventerà una verità. Così diceva Goebbels, gerarca nazista e ministro della propaganda del Terzo Reich. Così funzionano anche i discorsi, gli argomenti e le retoriche del nuovo neofascismo italiano. Funzionano senz'altro perché hanno dalla loro quello che è ormai diventato un po' un senso comune sugli eventi storici come su altri punti diciamo, più attuali del loro programma. Visto che il tema di cui parliamo oggi è il revisionismo storico, non c'è dubbio che in questo momento la retorica della destra radicale e della destra estrema, attorno soprattutto alla storia del Novecento, abbia in qualche modo il terreno spianato da 30 anni in cui si è faticato a opporre al discorso revisionista, poi cercherò di entrare un po' più nel dettaglio nelle prossime domande, ma comunque mi sembra che il punto sia che non essendosi riusciti a contrapporre al cambio di paradigma, al cambio di lettura dei fatti, per esempio della Resistenza, della Seconda, ma anche della Prima Guerra Mondiale, un discorso scientificamente fondato, rigoroso e allo stesso tempo accessibile, fruibile dai più, quell'insieme di contraffazioni che da sempre, dal 1945, caratterizzano la propaganda neofascista, prima e della destra di potere, poi sia diventato quell'insieme una sorta di nuova verità di Stato. Chiaro. Vai, Raff. Allora, come stavamo dicendo, quindi la storia viene revisionata, si cancellano i crimini del colonialismo italiano. Si nega il ruolo di organizzazioni e movimenti neofascisti nella gestione di alcune realtà partitiche e istituzionali. Si nasconde la pesante presenza di vie, piazze e monumenti intitolate ad alcuni delle più importanti figure del ventennio fascista. Perché l'Italia non riesce a fare i conti con questo passato? Ma perché manca la volontà politica di farlo. Dunque, chiariamo una cosa. Revisionismo. Allora, revisionismo è un termine che ha due significati. La prendo larga e poi stringo sui conti col passato. Ecco, però, visto che è il tema della nostra puntata, ci tengo a fare anche un po' di chiarezza attorno a questo termine, revisionismo, no? Allora, revisionismo ha in storiografia avrebbe anche una connotazione positiva, perché, insomma, dico una banalità, però il revisionismo è quel atteggiamento mentale che ti porta a non dare per scontate le opinioni consolidate e ti spinge a rivedere, quindi a tornare sulle tesi consolidate per nuovamente verificarle, quindi vedere se con il trascorrere del tempo sono tesi che reggono alla verifica metodologica, se magari sono intervenute delle nuove fonti che ci costringono a cambiare prospettiva sugli eventi, oppure invece col progredire del tempo sono emerse nuove domande che non si erano fatte prima al passato e quindi si prova a porle vedendo se la documentazione disponibile, se le fonti ci danno una risposta. Questo revisionismo è un revisionismo buono. Poi c'è un'altra accezione, almeno un'altra accezione di revisionismo, che un po' è un'accezione, se vogliamo, che troviamo nella tradizione marxista, no? Dove revisionista era un aggettivo, e revisionismo il sostantivo collegato, erano parole che avevano una connotazione negativa, perché i revisionisti erano quelli che venivano accusati di non restare fedeli alla lettera marxiana, quindi di deviare rispetto all'interpretazione corretta dei testi di Marx, e dunque i revisionisti, no, i socialdemocratici che rigettavano la prospettiva rivoluzionaria, per esempio, la taglio molto con l'accetta, erano negativi, erano tacciati di portare scompiglio nel campo, di deviare rispetto alla traiettoria che il marxismo doveva seguire per arrivare al socialismo. Ecco, quando si è cominciato a parlare di revisionismo in relazione ai fatti del Novecento, da parte di intellettuali più o meno di destra estrema e anche non tout court fascisti, ecco, si è cominciato a usare Marx, buonanotte, scusatemi, si è cominciato a usare revisionismo e secondo questa connotazione assiologica, negativa, revisionista era chi voleva mettere in discussione, ma non con buone intenzioni, non armato della giusta metodologia, l'opinione comune consolidata sopra, per esempio, ai 20 mesi della canonici della guerra di liberazione, sopra al formarsi della coscienza antifascista che guida alla liberazione, sopra i meriti del movimento resistenziale. Ecco, se però, e questo è il punto diciamo che, per cui ho voluto fare questa lunga premessa alla domanda che tu, alla risposta alla domanda che tu mi hai fatto. Allora, se fosse soltanto una questione di opinione, un movimento d'opinione, il revisionismo negativo, malintenzionato, non avrebbe fatto una lunga strada, tant'è che fino a tempi non recenti, scusatemi, fino a tempi recenti, fino, dicevo, all'ultimo trentennio, per ricollegarmi alla domanda di prima, fino a tempi recenti il revisionismo, quindi la messa in discussione propagandistica delle tesi consolidate sulla resistenza, era un fenomeno elitista, è un fenomeno di pochi, che non aveva seguito, che tutto sommato era circoscritto a poche cerchie, appunto, di neofascisti conclamati o di avventuristi del giornalismo in cerca di emozioni forti. Se quella roba lì è diventata invece mainstream, no? Titolo che si cita sempre, tutte le sante volte che si parla di questa cosa, il sangue dei vivi, Paolo Pansa, Infatti, abbiamo anche la domanda. Ecco, se quella roba lì è potuta diventare mainstream, è perché è cambiato l'orizzonte politico nel quale il lavoro dei revisionisti si è svolto, ed è un orizzonte politico molto più consentaneo, cioè molto più favorevole, e che anzi ha bisogno di distruggere le tesi storiograficamente più consolidate attorno alla resistenza, ai fatti del Novecento, per guadagnarsi una legittimità politica. Senza il sostegno politico, il che significa anche senza l'appoggio di un blocco di potere, questa operazione revisionista sarebbe stata, diciamo, appannaggio di qualche pubblicazione di case editrici o di stamperie legate ad ambienti neofascisti. E invece, con, diciamo, il cambio con il cambio di paradigma fondante, non so come dire, come il cambio di regime, ecco, potrei dire tecnicamente, quindi con lo slittamento dalla prima alla seconda repubblica e quindi con lo smantellamento, ecco, del fondamento antifascista del potere, che magari era nominale, però comunque era un fondamento rivendicatamente antifascista, e con l'avvento, al posto di quello, di un paradigma invece che ti legittima essere potere se sei nazionalista. E io ho scritto che secondo me, come secondo tanti altri, il passaggio dalla prima alla seconda repubblica è un passaggio dal fondamento antifascista al fondamento nazionalista dello Stato. Ecco, con questo passaggio qui il revisionismo, le tesi dei revisionisti sono potute diventare senso comune. Ok, ultima cosa che dico su questo punto: teniamo anche conto che però non è che i revisionisti si sono svegliati nel 92 con Tangentopoli. I revisionisti c'erano prima, pensiamo a tutto quello che si è sempre detto in ambienti neofascisti sulle foibe, per esempio. Ok? C'erano prima la caduta di un discorso forte di contrasto alla propaganda neofascista ha fatto sì che quegli argomenti, che pure circolavano anche prima, non sono stati fabbricati ex novo, avessero incontrastati una circolazione sempre maggiore. Poi, e chiudo veramente, c'erano delle tenaci bufale, e qui è proprio il caso di dirlo, bufale, è un sostantivo da usare con molta cautela perché vuol dire tutto ma vuol dire anche un po' niente, ma in un caso almeno l'uso è legittimato, è legittimo, è il caso di Via Rasella, perché Via Rasella, attorno a Via Rasella, la strage delle fosse ardeatine, invece le menzogne hanno sempre circolato, e hanno sempre circolato nel mainstream. Pensiamo a come Montanelli ha sempre accreditato la notizia falsissima dei manifesti murari e degli appelli delle autorità nazifasciste ai partigiani, autori di Via Rasella, d'attacco di Via Rasella, a consegnare. Ecco, questa cosa circolava dall'immediato post Via Rasella e ha continuato a circolare in ambienti non soltanto neofascisti, era già senso comune prima. Scusatemi, l'ho fatta lunghissima, spero di avervi risposto. No, ci hai risposto bene. Io non te la faccio la domanda sul sangue dei vinchi, perché penso anche basta. Però qual è la differenza oggi tra revisionismo e negazionismo, visto che si parla tanto di negazionismo, soprattutto negli ultimi tempi? Allora, il negazionismo è un fenomeno particolare, è un fenomeno particolare all'interno del quadro più generale del revisionismo, o meglio potremmo dire può essere un tipo particolare di revisionismo. È un tipo particolare di revisionismo quando, per esempio, mette in discussione, la reale esistenza delle camere a gas o nelle versioni più, tra virgolette, tra molte virgolette, più light, quando mette in discussione il numero di morti provocati dall'operazione massiva di sterminio nazifascista, perché appunto si premura questa versione del negazionismo di contrastare una tesi storiograficamente acclarata e condivisa e di sostituirla con, in realtà, pseudo argomentazioni, non con reali argomentazioni, ma appunto l'obiettivo è di sostituire una opinione storiografica, o meglio di contestare un'opinione storiografica e di accreditarne una di segno diverso. Ovviamente, diciamo, se noi pensiamo alle origini del fenomeno negazionismo nella seconda metà del Novecento, dobbiamo anche dire che i negazionisti potevano essere revisionisti di talune tesi, ma invece perfettamente aderenti all'opinione comune storiografica su altre tesi. Pensiamo a quel revisionismo francese che nasce da soggetti che un tempo, prima di diventare negazionisti, militavano in ambienti libertari. Ecco, magari da costoro, magari dal primissimo Forisson, non veniva, come dire, messo in discussione il valore di emancipazione delle forze che combattevano il nazifascismo, ma veniva messo in discussione, come dire, il paradigma americanista sopra gli esiti della seconda guerra mondiale. Quindi, diciamo, il rapporto tra negazionismo e revisionismo può essere di compenetrazione, come può non esserlo. La verità, però, è che io ho fatto gli esempi che ho fatto riferendomi al negazionismo in senso stretto, cioè all'orizzonte degli eventi, ossia l'operazione di sterminio nazifascista, rispetto al quale si è cominciato a parlare negli anni 70, 60, 70 del secolo scorso di negazionismo. Poi, come sappiamo benissimo tutti quanti, la parola negazionismo, un po' come la parola populismo, ha conosciuto in tempi recenti un'inflazione di significato e ha cominciato ad applicarsi ad ambiti che originariamente non stavano nella semantica di negazionismo, perché di fatto negazionismo è un po' come revisionismo, di per sé è un termine, diciamo, neutro, nel senso che ne il fenomeno di negare qualcosa può riguardare le camere a gas, come può riguardare un qualsiasi altro momento storico o un qualsiasi altro fatto di realtà. Okay? Per cui è già il termine stesso a prestarsi a un possibile allargamento di significato. Quello che però è successo è che il negazionismo, il termine negazionismo, con il fatto di essere così plasmabile, di potersi applicare a contesti diversi tra di loro, ha perso un po' della sua pregnanza, quando prima degli anni 10 del Novecento, del 2000, si diceva negazionismo, quello è un negazionista, era molto chiaro a che ci si riferiva. Ai Mattogno in casa nostra, ai Fourisson in casa transalpina, eccetera, eccetera. Secondo alcuni, alla scuola di Ernst Nolte in Germania. Ecco, adesso negazionista è chi nega l'esistenza, che ne so, della pandemia da Covid-19 o chi nega che so, gli stupri del 7 ottobre. Ecco, bisogna starci molto attenti a cosa si vuole fare con le parole, perché altrimenti il rischio è di tenersi soltanto il connotato negativo di insulto verso la controparte che è insito dentro la parola negazionista, così come è insito dentro la parola revisionista, ma poi l'esito per la pulizia del dibattito pubblico è catastrofico perché non si capisce più a che cosa si sta riferendo e quello che resta è soltanto appunto la dimensione della pura polemica fine a se stessa, della contumelia fine a se stessa, sganciata dalla realtà dei fatti. Chiaro. Senti, come abbiamo detto, cioè come hai detto, questa vulgata di bufale oppure di interpretazioni sbagliate dei fatti storici, diciamo, è diventata di senso comune, almeno in 4-5 episodi molto importanti. Se allarghiamo. E la cosa negativa che non solo è diventato di uso comune, ma sta iniziando ad entrare anche nelle scuole, soprattutto nella scuola pubblica, in alcuni contesti. Come invece in Europa si svolge questa operazione revisionista? Anche loro sono a livello molto avanzato, tipo il nostro? Allora, insomma, il caso da manuale, come sapete, è quella deliberazione del Parlamento europeo del settembre del 2019, che pure sotto la cautela di alcune formulazioni involute, di alcune circonlocuzioni, ma sostanzialmente giunge all'equiparazione sotto la categoria di totalitarismo, del fascismo e del comunismo. Allora, di nuovo torniamo un po' al problema dal quale siamo partiti. Perché? Perché qui noi ci stiamo collocando non a livello del dibattito fra gli storici. Sul modo di raccontare la storia, di studiare la storia. Non è questo di cui stiamo parlando un conflitto fra interpretazioni di studiosi e studiose con orientamenti diversi. Qui noi siamo a un livello che, vorrei sgombrare il campo da fraintendimenti, è altrettanto legittimo, o quantomeno più che legittimo. È uno dei livelli a cui si dà l'uso della storia, è uno di dei livelli del discorso attorno ai fatti storici, che è il livello politico. Questa cosa non deve scandalizzare perché tutto sommato la politica si è sempre servita del passato, non è un fenomeno di questi giorni, da che. Forse l'ho già detto anche qua, Radio Quar, ma insomma è uno dei miei cavalli di battaglia, da che esiste il racconto della storia, no? L'historia rerum gestarum, come si dice adoperando il latino, da che esiste la storiografia e da che esiste il racconto della storia. Il potere ha sempre costruito una narrazione del proprio passato, più o meno aderente ai fatti storici. Ecco, quindi non dovremmo essere scandalizzati dal fatto in sé che la politica si pronuncia sulla storia. Sarebbe meglio che non lo facesse, visti gli esiti cui perviene, però è un dato di realtà e lo è da lungo tempo. Per cui parlare di uso politico della storia, sì, per carità, ci aiuta a mettere a fuoco il problema, ma sarebbe non di questo pianeta pretendere che non sia così. Ecco. Allora, se però la politica, anche a livello dell'Unione Europea, e lo stesso si potrebbe dire anche fuori dell'Unione Europea, faccio un esempio dopo, ma a livello dell'Unione Europea, se la politica fa questo uso delle categorie storiografiche, totalitarismo, fa questo uso del passato, equiparazione sostanziale tra quelli che vede come due estremismi contrapposti, quello fascista e quello comunista, è perché il disegno politico sottostante a questo tipo di deliberazioni è quello da accreditare una e una sola visione ideologica del mondo, che è quella neo, metto tra parentesi, liberista. Quella cioè secondo cui la sola forma progressiva di esercizio del potere è la liberal democrazia, e quindi si relegano nel passato che non deve tornare i nemici della liberal democrazia, senza però curarsi di fare quello che dovrebbe essere necessario fare se si vuole fare un uso accorto, non meramente strumentale o propagandistico del passato, cioè distinguere tra i negatori della liberal democrazia, perché uno può essere un sincero liberal democratico senza dire che fascisti e comunisti pari sono, ma il disegno dell'elite europea in questo momento non è orientato in questo senso, è orientato in un modo non dissimile dall'orientamento prevalente nella classe dirigente italiana, che è un modo per l'appunto liberal conservatore, con evidenti punte reazionarie, molto più, se vogliamo, anticomunista che antifascista, perché si vede nel comunismo una minaccia che potrebbe sempre tornare e invece nel fascismo un esito già sconfitto dalla storia dal quale ci riteniamo vaccinati. Non devo venire a dire io che è un grosso errore di prospettiva. Luca, questo in Europa, però negli Stati Uniti, anche a partire dal dopoguerra, c'è stata una forte opera di revisionismo storico a minimizzare il genocidio operato dal Terzo Reich. Come mai, secondo te, ciò per riabilitare, diciamo, la figura di Hitler? E soprattutto, oggi, com'è la situazione negli Stati Uniti da un punto di vista del revisionismo e del negazionismo? Quello che è successo negli Stati Uniti, secondo me, è che la attuale cultura di destra americana ha inglobato delle movenze, dei tratti argomentativi, dei motivi propagandistici, dei temi, che sono quelli della cultura di destra, di estrema destra europea del Novecento. C'è stata dal secondo dopoguerra, prima in maniera sotterranea, poi anche lì, in una con il cambio di orizzonte politico, di cui Trump è l'antonomasia, c'è stata una ibridazione di argomenti tipici della destra americana, anarco-capitalistica, libertariana, in favore dello Stato minimo quasi inesistente, quindi turbocapitalistica, eccetera. Ecco, turbocapitalistico lo dice Fusaro, ma lasciamo stare. C'è stata quindi, diciamo, questi motivi che sono niente indigeno, però sono propri di una destra culturale che in qualche modo con Reagan ha avuto anche un fortissimo addentellato con il potere. Ecco, questi argomenti si sono fusi con i motivi, non so, pensiamo al tramonto dell'Occidente di Spengler o a Debenois, la Nouvelle Droite, i gruppi di ricerca animati da Alain Debenois nella seconda metà del Novecento, anche soltanto motivi, pensiamo a motivi evoliani, perché alcuni intellettuali di destra americani sono venuti in Europa a fare il Grand Tour negli anni 50 del Novecento perché affascinati dai pensatori reazionari, quando non esplicitamente fascisti, europei del primo Novecento. Questo bagaglio culturale che, come torno a ripetere, adesso non voglio fare la figura del rigido meccanicista, però questi motivi culturali a un certo punto sono stati immessi nel patrimonio nel repertorio della destra estrema americana, e quando hanno trovato il reagente idoneo, potremmo dire con gli anni 90 e 2000, l'emergere di un conservatorismo molto aggressivo post-reganiano, questo è stato il reagente idoneo, hanno potuto diventare non patrimonio di alcuni cultori in fissa col nazifascismo, ma hanno potuto diventare patrimonio condiviso di alcune sottoculture anche piuttosto consistenti e numerose. Questa cosa è spiegata molto bene in diversi libri. Voi avete già intervistato Leonardo Bianchi, che ne sa molto più di me su questo, però io aggiungo, se non l'ha già citato lui, aggiungo magari qualche titolo. Per esempio, uno di dei libri che spiegano molto bene questo andazzo è il libro di George Hawley, che si chiama Making Sense of the Alt-Right. Un altro libro, tra l'altro scritto da un insospettabile, perché non è un compagno, ma è anzi uno storico delle religioni cristiano e anche piuttosto conservatore, Matthew Rose, che ha scritto questo A World After Liberalism. Ecco, in tutti questi libri ci sono degli intellettuali americani, accademici americani, che provano proprio a sondare l'intersezione tra tratti tipici dell'ultraliberismo americano e tratti caratterizzanti della cultura d'estrema destra europea. Perché questo sia avvenuto, non perché o non da parte dei principali attori di questa vaga culturale, non perché si voglia, come dire, particolarmente bene a Hitler, questa cosa è impedita dalla retorica nazionalista americana, che ha uno dei suoi tratti fondativi proprio nella guerra antinazista, quindi non potrà mai davvero sfondare e diventare senso comune un aperto filonazismo, ma che anche in America ci sia un desiderio dell'uomo forte, legibus solutus, svincolato dai lacci della democrazia e autoritario per il meglio dell'America, ecco, questo invece è successo molto chiaramente, ed è risuccesso di nuovo qualche settimana fa. Luca, tu nel tuo libro L'antifascismo e il suo contrario, c'è tutto un capitolo intitolato All'antifascismo scientifico, che è sostanzialmente dedicato al compito che ogni militante è chiamato a svolgere di alfabetizzazione storica. L'ho fatta Sì. brevissima, scusami. E quindi però questo lavoro non può essere demandato solo agli storici di professione, ma deve essere andare a braccetto con la militanza. Credi che questa sia una buona soluzione? Se lo si vuole fare, sicuramente. Dipende dalla prospettiva nella quale ci si pone. Io, diciamo, di lavoro, sì, faccio in qualche modo ho a che fare nel mio lavoro con la storia, però non sono uno storico contemporaneista di mestiere, okay? Non studio il Novecento di mestiere o tantomeno gli anni 2000. Questi fatti di cui abbiamo parlato oggi, su cui abbiamo ragionato, sono fatti con i quali io sono venuto a contatto nella mia persona di militante, prima, molto prima che nella mia persona di storico, peraltro storico di una disciplina molto settoriale come è il diritto. Allora, Claudio Pavone, il grande storico della Resistenza e non solo della Resistenza, diceva nella sua bellissima prima lezione. Scusatemi, nella sua bellissima prima lezione di storia contemporanea, uscita dalla terza, diceva: guardate, la tradizione marxista ha sempre visto il mestiere di storico, l'indagine storica, anche come uno strumento di battaglia politica, cioè si vuole studiare la storia nella sua dimensione materiale per poter meglio capire il presente, quindi usare le acquisizioni della storiografia per fondare post-storicisticamente un programma emancipativo, politico, un programma di emancipazione. Allora, io voglio essere, cioè voglio dirlo molto chiaramente, non è che sto chiedendo a tutti di fare i militanti, non è obbligatorio militare, naturalmente, non è questo. Uno può essere, e ci sono esempi valentissimi, può essere un eccellente storico, può essere un'eccellente storica, eppure non aver mai frequentato una sede di partito o di associazione in vita sua. Però, al contrario, se uno è militante o una è militante, soprattutto vorrei dire, ripeschiamola questa lezione che Pavone ascriveva alla tradizione marxista, okay, ripeschiamola. Se si vuole essere militanti a sinistra, dico io, ecco, allora la connessione con la storia sì, deve essere profonda. Io nel mio libro provo a spiegare il perché deve essere profonda, ma per dirla in due parole, se noi eleviamo l'antifascismo a valore, e beh, allora stiamo dicendo che noi ci rifacciamo tutta una storia, che è quella appunto dell'opposizione al fascismo. Se non ci Certo. diciamo militanti antifascisti, e allo stesso tempo ci vogliamo collocare a sinistra, secondo me abbiamo qualche problema. Se ci diciamo militanti antifascisti, e vogliamo essere davvero conseguenti, allora nostro dovere è conoscere, non a livello specialistico, non a livello da corso di storia contemporanea, però conoscere e conoscere profondamente, conoscere criticamente la storia dalla quale veniamo, se no ha molto poco senso dirsi antifascisti. Quando tu adoperi un termine come antifascismo, stai facendo riferimento a un fenomeno che ha una sua storia e quindi se vuoi essere conseguente, quella storia ti è fatto carico di conoscerla. Poi non è detto che tu debba prendere tutti la storia e dire io la porto avanti tutta nel suo complesso, anche perché sarebbe un po' impossibile, come scrivo nel libro, no? Non si può essere allo stesso tempo monarchici e repubblicani, eppure abbiamo avuto antifascisti monarchici e abbiamo avuto antifascisti repubblicani, ok? Quindi alla fine una scelta di campo bisogna farla, però sempre conoscendo il terreno nel quale noi ci collochiamo. Luca, invece, da quello che sappiamo, la dimensione della memoria non è, diciamo, sufficiente. La memoria è un campo di battaglia perché continuamente utilizzato a uso e consumo dell'attualità politica, soprattutto per legittimarsi, ripulirsi, negare. Quindi un uso strumentale che ha un impatto sull'opinione pubblica molto più forte dell'approccio, diciamo, testimoniale e scientifico. Quindi la memoria come campo di battaglia, quali approcci e metodi richiede? La memoria è un campo di battaglia, anche la storia è un campo di battaglia, e non soltanto la memoria. Chi verrà dopo di me in questa stessa trasmissione è l'autorità assoluta in materia, quindi io fa un passo indietro, ma Enzo Traverso l'ha molto studiato questo aspetto, e quindi mi rifaccio ai suoi scritti, come gli scritti di altri autori, a cominciare dal Fare e andando avanti. La memoria non è sufficiente, ma è imprescindibile, è praticamente ineliminabile, cioè ogni persona e ogni identità collettiva, quindi ogni gruppo, ha una sua memoria che non è detto che coincida con la storia, perché la memoria individuale o di gruppo che sia è comunque soggettiva. È per definizione parziale. Non torno su argomenti di cui ho già parlato qui su Radio Quar una quantità indecente di volte, ma questa che ho appena detto è la ragione per cui una memoria condivisa è una specie di contraddizione in termini. Ne abbiamo parlato tante volte, non ci torno. La memoria, quindi ognuno di noi, io come persona, la mia famiglia, il mio gruppo d'amici con cui magari sono andato al liceo, abbiamo ricordi dei nostri tempi scolastici, i miei genitori hanno ricordi di quando io ero bambino, e così tutta una comunità, anche politica, ha un suo insieme di ricordi. Ora, la dimensione del ricordo sicuramente è utile a cementare una identità, è ciò che costituisce un'identità, ma non è detto che sia utile invece a fondare una comunità, che invece è una società, ecco, non è detto che sia idonea a fondare una società. Soprattutto se questa memoria è, come è il caso che ci occupa, è una memoria di parte spacciata però per memoria di tutti. Allora questo sì che è un progetto di uso politico della memoria, ed è un progetto che intrinsecamente è destinato a non avere contraltari, non avere contromisure efficaci, perché chi può nella maniera più efficace opporre una contromemoria a quella strumentale che si fa quindi, come dire, paradigma di governo, strumento di comando, va scomparendo, ok? Quindi chi meglio di un testimone può contrastare un uso disinvolto della memoria? Il testimone, per definizione, è il portatore per eccellenza della memoria, e come tale va preso con tutti i riguardi, ma anche le attenzioni critiche del caso, perché non è detto che la memoria del testimone sia verità storica. Qui, diciamo, certo, non si devono confondere i piani, ma da un punto di vista puramente retorico, se vogliamo metterla in questi termini, da un punto di vista retorico, il testimone parte avvantaggiato rispetto al non testimone, perché può dire io c'ero, siccome sono sempre di meno quelli che possono dire io c'ero, le memorie contrapposte finiscono un po' con l'essere sullo stesso piano, e quindi uno può dirti, vabbè, tu non c'eri come non c'ero io, questa è la tua memoria, quest'altra è la mia memoria. In uno scontro di memorie fatto in questo modo, chiaramente chi è che prevale? Il più forte. Quindi chi ha dalla sua parte il senso comune, oppure chi ha dalla sua parte la legittimazione politica. Torniamo sempre a questo punto. Quindi per evitare questa secca del dibattito, cioè la deriva delle opinioni, no? Io la vedo in un certo modo, tu la vedi in un certo modo, ma le mie e le tue visioni tutto sommato si equivalgono, perché sono opinioni, sono punti di vista. Per evitare questa secca improduttiva del dibattito, che è però il posto in cui al momento il dibattito sulla storia si trova nel mainstream, quello che noi dobbiamo pretendere come, scusatemi, sarò altisonante, come cittadine, come cittadini, come individui e come gruppi che fanno parte di una società, è il piano della verifica storica, che non è un piano oggettivo, questo è chiaro, è semplicemente un piano metodologicamente sorvegliato, come scrivo e dico da tempo. Cioè è un piano in cui se tu fai un'affermazione devi provarla in base a uno standard condiviso, che è quello che per convenzione noi chiamiamo il metodo storico. Ecco, alla prova del metodo storico, la memoria che si fa strumento di potere non regge. Solo che noi dobbiamo avere la forza, ed è una forza che non possiamo avere come singoli studiosi, per tornare alla domanda di Raffaele di prima, ma dobbiamo avere come gruppo di cittadini, come gruppo sociale, è di pretendere che che la memoria sia vagliata, che il ricordo, giorno del ricordo, che il ricordo sia vagliato dalla competenza degli storici. Secondo te invece quanto la vulgata revisionista delle destre post-fasciste è stata facilitata da una pedagogia resistenziale edulcorata dagli aspetti più cruenti della lotta della liberazione e della resistenza? Ah, gli abbiamo scavato, gli abbiamo proprio aperto un'autostrada facendo così. No, perché poi volevo aggiungere, e secondo te quanto una parte della sinistra è responsabile di opporre l'unico strumento antifascista che è la Costituzione? Quante ore ho per rispondere a questa domanda? Perché questo, secondo me, è il tema. Di tutti, guarda, lo penso anch'io. Questo è il tema, perché, guarda, per non parlare 18 ore, dico, leggiamo e discutiamo il libro più recente di Giuseppe Filippetta, La Repubblica senza Stato. Perché lì ci sono molte delle coordinate, a prescindere che si condivida o non si condivida il punto di vista di Giuseppe Filippetta, ma le coordinate del dibattito che la domanda di Rafa ha impostato lì sono tutte presenti. Ora, se la devo dire in un giro di frase, io dico così: la Costituzione è meglio averla che non averla, perché davvero nella Costituzione c'è delineato un programma che, se si ha la forza materiale di attuarlo, ma di nuovo siamo sul terreno dei rapporti di forza, è quantomeno un programma socialdemocratico. Che le cose siano questo modo è ancora una volta la storia a dircelo. Cioè, davvero una parte dei lavoratori la parte grossa dei lavoratori aveva inteso nell'immediatezza della sua promulgazione la Costituzione come un programma emancipativo. E quindi si pretendeva il lavoro, e quindi si pretendeva di resistere agli abusi polizieschi, all'oscurantismo democristiano, alle censure delle libertà fondamentali, brandendo la Costituzione. Ci sono queste testimonianze di lavoratori che scioperano con in mano la Costituzione. Ora, questo è un argomento potente di per sé, almeno io sono giurista di formazione, scusatemi, quindi porto, come dire, la deformazione della mia formazione. Io trovo che l'argomento costituzionale non sia del tutto privo di una sua forza. Certo è che resta privo di una sua forza se lo si intende, questo argomento, abbiamo la Costituzione, lo abbiamo sentito declinare in questi ultimi anni, e cioè invece di essere un pungolo per pretendere ciò che di diritto già spetterebbe alla classe lavoratrice, su cui si fonda, no, dice la Costituzione, lo Stato repubblicano, invece di pretendere questo dicendo: ma guardate che non è che dobbiamo inventarci qualcosa, non dobbiamo fare un'altra rivoluzione, c'è un testo che dovrebbe stare in cima alla gerarchia delle fonti, che già prevede strumenti di emancipazione sociale, di eliminazione delle disuguaglianze, eccetera. Invece di intenderlo in questo modo, nella maniera radicale, che per esempio era propria degli operaisti negli anni 70, tanto per citare un precedente, ecco, quello che si è fatto è dire: vabbè, non dobbiamo protestare più di tanto, non dobbiamo mobilitarci contro il potere, contro il governo, magari di centrosinistra, perché così si tradisce lo spirito costituzionale, così si tradisce la lotta partigiana. Quello che dovevamo avere l'abbiamo già avuto con la Resistenza, i nostri partigiani, i nostri nonni, no? La Vulgata, i nostri nonni hanno fatto la Resistenza, quello che si doveva conquistare lo si è conquistato, siamo a posto così. Io intendo in questo modo la maggior parte degli appelli alla Costituzione, e quindi, lungi dall'essere uno strumento potenzialmente rivoluzionario o quantomeno progressivo, ecco, si è tramutata la Costituzione in uno strumento di conservazione, di sterilizzazione della protesta, delle mobilitazioni sociali. Ecco, io trovo che questo sia il modo peggiore di adoperare la Costituzione. Dopodiché torno al punto di partenza e dico: non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Poi non so cosa pensiate voi, e sarebbe bello discuterne, ma io sono dell'idea che non bisogni sbarazzarsi del tutto dell'armamentario anche retorico, non soltanto giuridico, che la Costituzione si porta con sé, perché si butterebbe via con un po' troppa facilità soprattutto il principio di eguaglianza sociale e sostanziale, che invece noi da una prospettiva di progresso, di emancipazione, anche di rivoluzione, se volete sentire il mio punto di vista, noi invece ci siamo sempre rivendicati un po' la tradizione dell'89 francese, da cui discende la sinistra europea degli ultimi due secoli. Ecco, l'eguaglianza sociale sostanziale è sempre stata una rivendicazione di sinistra, e quella sta in Costituzione. Dopodiché, se però si dimentica l'articolo 3, comma secondo della Costituzione, e la Costituzione la si adopera soltanto per dire: lasciateci governare, allora sì, quell'argomento bisogna abbandonarlo. Sono d'accordo con te, Luca. Sì. Sono veramente pienamente d'accordo con te. Senti, Luca, invece una cosa che volevamo chiederti è sulla cattiva informazione storica, perché comunque è molto pervasiva. E tu fai parte del collettivo Nicoletta Bourbaki, come abbiamo detto prima, che proprio sul piano della ricerca e della decostruzione di narrazioni revisioniste poggiate, che si poggiano su falsi accadimenti, ha fatto la sua cifra stilistica di militanza antifascista scientifica. Quanto è più pervasiva di quella cattiva informazione storica? Si può dire grazie ai media, all'uso della rete, dei social, perché comunque basta, secondo te, un lavoro su quelle piattaforme mediatiche per disincrostare l'accreditamento di fonti che sono palesemente inventate, romanzate. Qual è la tua esperienza in merito? E allora diventa sempre più difficile fare quel lavoro lì, perlomeno sulle piattaforme sociali. È difficile, essendosi ormai consolidato quel senso comune, consentaneo alla propaganda di destra radicale di cui abbiamo parlato, diventa sempre più difficile il lavoro di decostruzione. Perché diventa difficile? Perché lo smontaggio, dal punto di vista della velocità, che noi sappiamo essere uno dei dogmi della comunicazione sui social network, è perdente. Perché devi prima dire l'avversario ha torto e poi spiegando perché ha torto e poi proporre la tua visione. Si capisce molto bene che questo con estrema difficoltà si riesce a fare in un tweet, in una storia di o un post, come si chiama adesso, in una storia di Instagram o in un reel o quello che è molto complicato perché perché è molto più semplice, come dire, ri ripetere, ribattere credenza che ha valore di verità perché è senso comune. Quindi, se io dico quei criminali di Via Rasella che hanno attaccato dei vecchi semipensionati musicisti Bolzanini, sicuramente intercetto un sentire che è abbastanza consolidato. Se io dico no, ma vediamo di passare in rassegna gli accadimenti che hanno portato all'arresto e poi alla uccisione di Norma Cossetto, oppure vediamo il passato, vediamo le ragioni per cui è stata uccisa Giuseppina Gersi, tanto per parlare di figure delle quali ci siamo occupati con Nicoletta Bourbaki. Lì partiamo svantaggiati perché dobbiamo innanzitutto risalire la corrente del senso comune. Inoltre, mettiamoci che appunto le piattaforme non sono, dico, un'ovvietà dei luoghi neutrali, sono luoghi in cui l'agenda dei proprietari corrisponde a modalità di formazione dell'algoritmo e quindi, come dire, di costruzione delle bolle sociali e di selezione quindi dei contenuti, per cui è sotto gli occhi di tutti l'uso che ha fatto, per esempio, Elon Musk nella ultima campagna presidenziale americana, così come l'uso che era stato fatto e consentito da Facebook nella campagna presidenziale del 2016. Quindi non è che è Twitter cattivo, X cattivo e Facebook buono o le altre piattaforme buone, non è ovviamente così. Per cui c'è una distorsione prospettica che è imposta dal fatto che le piattaforme sono di proprietà privata e rispondono quindi agli interessi dei proprietari. Ecco, detto tutto questo, è anche molto difficile, come dire, per quanto la tentazione venga, è difficile in buona coscienza o senza alcun rimorso abbandonare quel livello della polemica, perché insomma è una delle i social, ma anche le pagine dei giornali o i talk show, per chi riesce ad andarci, sono luoghi di formazione dell'opinione pubblica, sono agenzie di formazione dell'opinione pubblica, quindi averci dentro dei guastatori è sempre meglio di non averli, un po' come dicevamo della Costituzione di prima. Certo è che questi guastatori, se decidono di sacrificarsi in questo modo, hanno un compito che rischia di ingenerare frustrazione, rischia quindi di ingenerare risentimento, reazioni scomposte, e quindi si rischia di fare il gioco dell'avversario. Trovare un equilibrio nel tentare di fare quella che in tanti abbiamo definito la battaglia nel fango sui social, sui giornali, sui media mainstream, è questione della massima delicatezza, perché poi in gioco c'è anche la stabilità emotiva nostra, di noi che facciamo questo tipo di lavoro, perché siamo persone, anche noi. Quindi la possibilità di tener botta dipende dal fatto di non sentirsi soli, per questo lavorare in un collettivo è meglio di lavorare da soli. Per questo, frequentare le piattaforme con misura è fondamentale per non cadere nel rabbit hole dello scrolling, della risposta a tutte le polemiche, quindi la capacità di selezionare è fondamentale alla sopravvivenza di un lavoro efficace di contrasto al livello delle piattaforme, con un po' il trucchetto, ammesso che funzioni, un po' il trucchetto però di rimandare i discorsi un po' più di principio, di metodo, o le analisi che richiedono più tempo a luoghi esterni al flusso della comunicazione social, perché ci sono dei discorsi che non si possono fare sui social. Anche quello che stiamo facendo adesso in questo momento non lo possiamo fare su X o sugli altri social su cui è Radio Quark, lo dobbiamo fare a voce, perché c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di un perimetro, cioè c'è bisogno che non il primo che passi venga qui e vomiti la sua sentenza. Non è una cosa elitaria questa, è semplicemente una condizione di possibilità di un dibattito sensato. Lo sai una cosa, Luca? Quando abbiamo iniziato, questo viaggio, nelle prime puntate, quando ad esempio con Leonardo Bianchi o anche successivamente si è fatto il nome di Musk, ma magari inizialmente forse sorridevamo, però questa è la sesta puntata dove il nome di Musk esce fuori e quindi inizia ad essere piuttosto ingombrante come personaggio. Ho detto l'uomo più ricco del mondo, quindi bisogna avere, se non altro, ecco, il suo estremismo è utile, ammesso che sia utile a qualcosa, è utile a mettere in chiaro aspetti del cortocircuito fisiologico tra proprietà privata dei mezzi di produzione e circolazione dell'informazione, che altrimenti rischierebbero di rimanere latenti. Con Musk questa cosa è palese, è sotto gli occhi di tutti, voi che gli occhi li avete, è alle orecchie mie, ma è palese. Abbiamo un supercapitalista che avrà un ruolo nell'amministrazione della potenza mondiale egemone, che è proprietario di un pervasivo strumento di informazione e che è un estremista di destra. Ecco, qui il rapporto tra capitale, politica e ruolo dell'informazione è dispiegato nella sua massima chiarezza. Non so che cosa si possa diciamo avere di più esemplare di Musk in questo momento, perlomeno. No, volevo restare sempre sulla questione mass media, in questo caso mainstream. Lo storico De Luca, in un saggio, ha affermato che il revisionismo tende a privilegiare la comunicazione televisiva rispetto ai libri, però che è quello che è l'opposto, che dovrebbe essere la nostra militanza scientifica. E questo discorso in TV rifiuta la complessità dell'argomento, quindi magari organizza Fiction Rai sulle foibe o su Claretta Petacci, oppure manda avanti in pompa magna quei libri tipo quello di Panza. Secondo te è una partita che si gioca ad armi pari con l'altra parte? No, purtroppo no. Perché come dicevo prima, nel momento in cui l'altra parte è potere legittimo dello Stato, la sua opinione è ha maggiori possibilità di essere creduta rispetto a quella di chi la contesta. Però questo non ci deve, secondo me, scoraggiare dal provare a giocarla quella battaglia. Ci sono dei comunicatori che non tirano via, che non semplificano, ma che hanno un esemplare dono della sintesi. Io non sono sicuramente tra questi, e che quindi possono reggere i tempi televisivi, per dirne una, asserendo verità storiografiche, pure dentro ai format della televisione. E a queste persone non va, come dire, tolta la possibilità di esprimersi nei mass media in nome di una purezza della nostra scienza che altrimenti sarebbe contaminata dal contatto con il grosso pubblico e gli strumenti di comunicazione di massa. Ovviamente non è questo quello che sostiene Giovanni De Luna, tant'è che Giovanni De Luna in televisione ci va, e meno male che ci va, per cui non sto criticando Giovanni De Luna, che non sostiene come dire, la tesi isolazionista della Torre d'Avorio, però è vero che ci sono certi colleghi e certe colleghe per cui diciamo andare in televisione, presenziare alle feste, le feste popolari, le feste di partito o ai festival pop, sarebbe un peccato, una diminuzione della propria maestà, del proprio statuto scientifico. Ecco, no, io trovo che diciamo la sfida del come essere pop senza essere dei tromboni in un caso o dei semplificatori in un altro caso, noi ce la dobbiamo porre con tutto quello che ho detto prima, quindi rimando alla risposta precedente sul fatto che comunque dobbiamo risalire la corrente, e questo è fuori di dubbio, perché noi in questo momento, dal punto di vista del dibattito sull'uso della storia, siamo all'opposizione e la maggioranza sostiene cose radicalmente opposte rispetto alle nostre. Luca, noi siamo arrivati alla fine, però prima di lasciarti e di salutarci, ti facciamo la domanda che stiamo facendo a tutte e a tutti i nostri ospiti. Cosa significa essere fascisti nel 2024? E ti aggiungo, cosa sono le nuove destre nel 2024? Allora, Quasi 2020, quasi 2025. quasi 2025. Emilio Gentile, che pure diciamo, non appoggerebbe la risposta che sto per dare, però dice una cosa sacrosanta quando dice che il fascismo è definito dalla sua storia. Il fascismo, come qualsiasi altro fenomeno politico, che oso io. Allora, il problema dell'applicazione di questa giusta puntualizzazione di metodo al fascismo è che la storia del fascismo, anche volendola limitare, cosa che secondo me non deve essere fatta, al 1945, è una storia ambigua, contraddittoria, sfuggente per certi versi, perché della come dire, del carattere anguillesco della loro ideologia, della difficile prensilità dell'ideologia fascista, i fascisti, della dottrina dello Stato fascista, direbbe il mio amico Davide Conti, i fascisti si sono sempre fatti un vanto, a cominciare da Mussolini, che predicava per se stesso e per i suoi seguaci di essere rivoluzionario e conservatore, anarchico e autoritario, e via elencando gli antonimi. Ecco, tuttavia, per non cadere nel relativismo assoluto, dei punti fermi ci sono, e i punti fermi sono perlomeno quelli che sto per elencare, probabilmente non gli unici, ma questi sicuramente. Allora, il fascismo è una soluzione autoritaria a una situazione di crisi. Ed è in particolar modo un'uscita a destra dalla crisi. Quindi un'uscita a destra dalla crisi significa una uscita che può essere eversiva, come può essere invece conservatrice dell'ordinamento vigente, quindi la rivoluzione non è un discrimine, si può essere fascisti, diciamo rivoluzionari o invece tranquillamente legalitari conservatori, quindi questo non è un discrimine. Sicuramente il fascismo è una forma di superamento autoritario della crisi, gradito e appoggiato dalla classe dominante, quindi diciamo così come era nel 24, nel 22, così oggi, co come era nel 24-22, così oggi, la soluzione, una soluzione che si può chiamare neofascista è una soluzione che riesce gradita al padronato. Non si capisce il fenomeno fascista se non si comprende il carattere di opposizione solo apparente agli interessi del capitale, che però quando il blocco fascista diventa blocco di potere, diventa potere statuale, diventa Stato, l'opposizione, diciamo, l'afflato anticapitalista viene gravemente ridimensionato, e anzi il fascismo storicamente fa gli interessi della grande industria e diciamo, anche della proprietà agraria, quando negli anni 20 ancora il componente latifondista e agraria in generale era blocco di potere forte nello Stato, nella Costituzione dello Stato italiano. Allora, chi propaganda un'uscita autoritaria dalla crisi, con il consenso almeno di una parte del blocco capitalistico, si candida a essere un buon neofascista. Diciamo neofascista, perché poi veramente il senso della storia noi ce lo dobbiamo avere e sarebbe un evidente in un senso predicare l'uguaglianza di un'identità tra un fenomeno attuale e quello di 100 anni fa, ma nemmeno il più inconsapevole degli antifascisti direbbe una sciocchezza di questo genere, e mi sembra stupido rimproverare all'antifascismo di ritenere che torni il fascismo in orbace. Non lo dice nessuno questo, quindi è un argomento che va bollato come puramente capzioso. E quindi tutto questo, quindi l'uscita a destra, autoritaria e filocapitalista dalla crisi, si porta con sé i valori che la destra, o i disvalori, che la destra di un certo momento storico fa propri, per cui diciamo... Il razzismo e la misoginia in chiave di mantenimento delle gerarchie di genere esistenti sono tratti dell'attuale cultura di destra, che quando coniugati appunto con la pulsione autoritaria, antipopolare, antilavoratrice, di superamento della crisi, fanno una ricetta fascista, o neofascista, meglio sarebbe dire. Così come la cultura di destra degli anni venti si portava con sé, ancora una volta, il razzismo, massime l'antisemitismo, che era già però trovava già costituito nel proprio bagaglio culturale, non è un'invenzione fascista l'antisemitismo, così come non è un'invenzione neofascista il razzismo, che invece sappiamo essere, e non devo raccontarlo io, dimostrarlo io, sistemico. No, questa tua, diciamo, chiosa finale si lega benissimo a quello che diceva Anna Curcio nella scorsa intervista, che comunque è le nuove destre vanno a braccetto e a difesa del capitalismo, del nuovo capitalismo. Non c'è dubbio su questo, certo. Luca, noi ti ringraziamo, come sempre, veramente sei stato gentilissimo e disponibile. Quindi ti mandiamo un abbraccio e sicuramente... Grazie. Sono io che ringrazio voi, grazie infinite dell'ospitalità, come sempre.